lo Juarnuca cantano le mani e le mani sanno cantare, ed è successo che stamattina questa canzone è stata richiesta di persona personalmente da Mimì Augello, il vice commissario di Vigata, che ha telefonato per fare una dedica specialissima, e cioè la dedica è a tutte le sue donne. Mimì Augello non vuole fare distinzione, ma poi alla fine l'ha fatta a tutte le sue donne, e in particolare a una, senza dire chi, perché comunque anche un poliziotto ha la sua omertà. Ma ti rendi conto? Sorprende sempre, butta fuoco. No, usa pure la polizia per fini inenarrabili, e non ridere. No, chiarissimi, no, fini chiarissimi. No, bisogna sempre coprirlo, perché no? Possiamo rendere omaggio a Olivia Selleri? Vabbè. Va bene, abbiamo capito. Beh, vediamo la bolla cattiva di Mario. Vai con lui. Quanto mi carica questa musica. Io oggi voglio l'aiuto di Pietrangelo, però, in questa per bolla. Fare la bolla cattiva, sì, dai. Perché guarda, tu hai letto Saviano stamattina, Pietrangelo? Sì. Certo, non faccio altro. Saviano su Repubblica, sì, ha celebrato il premio Nobel, perché è la prima volta della non fiction novel all'Accademia di Svezia, molto importante, certamente. Quindi noi sapremo che con l'ego piccolo che ha Saviano, lui è il prossimo candidato di questo passo. Però visto il livello dei Nobel, certo, mi pare ci siamo. Però fin qui sono legittime aspirazioni. Il problema in realtà sono le ispirazioni, perché nel suo pezzo il grande Saviano, l'inimitabile Saviano, che imita insomma tutti molto bene, cita Truman Capote. Ora Truman Capote si dà il caso che sia uno degli scrittori che a me più piacciono. Vabbè. E devo anche dire che ho letto un pochino qualcosa da Colazione di Tiffany a Sangue Freddo eccetera, e citando a Sangue Freddo e il processo che ne scaturì da quel quadruplice omicidio della famiglia Cutler, lui dice: Capote oggi non avrebbe potuto scrivere il suo libro di non fiction novel perché l'avrebbero massacrato come hanno fatto a me. Ecco, Saviano secondo me è andato oltre, ha inventato un nuovo genere, l'autodifesa per interposto scrittore, e dunque abbiamo un nuovo conio: Truman Saviano, non più Truman Capote. Grazie. Ma Pietrangelo, una chiosa non me la fai? L'inimitabile diventa incopiabile. Salamino. Salamini per tutti, sono salamini volanti, caro Giovanni, e la controaerea è in allarme, perché chi di cene ferisce, di pranzi perisce. I fedelissimi di Ignazio Marino accusano Matteo Renzi di avere ordito il complotto del ristorante. Ma ecco che opla! Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comodo. Ecco che il marino con scontrino ha in soccorso, come fosse una bella trovatura, una bella emissione di fattura, cioè una tavolata di Renzi anteriore alla sua sindacatura. Si tratta di giustificativi non troppo dettagliati. E qui torna l'oste, il ristoratore, il trattore, che da Firenze dice: portava la qualunque e fatturavo al comune. Insomma, tutta una confusione, scontrini e fatture di una stagione fastosa. Sono 600.000 euro tra viaggi, ristoranti, regali, ospitalità. E Davide Vecchi, autore dell'Intoccabile, un libro su Matteo Renzi, prepara un ghiotto, ed è il caso di dirlo, servizio sul Fatto Quotidiano, e cioè di come Marino è stato smentito dai ristoratori di Roma. Così Renzi ha avuto in Lino Amantini il suo, come si può dire, accusatore. No, cioè, insomma, anzi, poveretto, si lamenta perché che dice, portavola qualunque, sa quante tavolate, feste, pranzi e cene di lavoro qui dentro, fatture saldate, un affarone per i ristoratori. Però da quando Matteo è andato a Roma m'è calato parecchio l'incasso. Oh, che è successo? Renzi ha inviato un SMS a Davide Vecchi ed è stato pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano. Le cene me le pagavo io, dice, solo che sti benedetti scontrini non si trovano. In compenso però, perché siamo garantisti e io non voglio passare per quello che proprio ce l'ha contro Renzi, però ho recuperato il programma di governo di Matteo Renzi, dove c'è il Jobs Act, dove c'è la stabilità, dove c'è la riforma del Senato, dove ci sarà che aggiusterà pure il Sud. Insomma, ecco qual è il programma di Matteo Renzi. Primi piatti, rigatoni con pagliato, lire 7.000. Pasta e fagioli, lire 5.000. Secondi piatti, rognone trifolato, lire 6.000. Avrete riconosciuto la voce di Vittorio Gassman nel celeberrimo menù letto dal grande attore. Però il programma di Renzi è così, eh? Rognone trifolato, però. No. Si trifola. Una sola parola. Giù! Beh, ci sta Juventus. Questo è il film Tifosi di Abbadantono del 99. Perché questo film? Alla Juventus, la squadra che in fondo ci ha fatto sognare, noi juventini almeno, in questi ultimi 4 anni, è capitato un cataclisma per via di una sbandata sentimentale, così pare, del suo presidente Andrea Agnelli, e che ha influito su tutti gli aspetti della gestione della squadra, dicono gli esperti. Ecco, ma a parte il Fatto e Dago Spia, i giornali che sono stati nella storia sempre pronti a zannare qualunque gossip personale per farlo diventare notizia da prima pagina, perché non ne parlano? Hanno fatto dei passi avanti dopo i casi Berlusconi? O è una domanda che ci aiuta a fare un passo avanti a noi nella valutazione dello stato della nostra informazione, Mario? È una bella domanda. In effetti io tutte le cose le ho lette su Dago, sostanzialmente. E mi interrogo anche io, perché è una notizia ghiotta. Cioè, interessante. No, voglio dire, quando c'era il cavaliere sotto le lenzuola, ammazza, scatenati. Che dici, Pietro? Allora, si sono lette appunto su Dago Spia, sul Fatto Quotidiano, non si leggono negli altri giornali, perché noi veniamo da una lunga tradizione dove ci facevano credere che perfino la Fiat Duna fosse una grande macchina. Adesso sono ritornati in mitica, auge i signori della famiglia, e quindi dopo la parentesi Lapo è ritornata invece la forza potente dell'omertà, e non è Mimì Augello in questo caso. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. L'Ungheria decide di proteggere le proprie frontiere e annuncia la costruzione di una barriera. Un muro alto 4 metri e lungo 175 chilometri. L'obiettivo è fermare il flusso crescente di migranti lungo la cosiddetta rotta dei Balcani verso l'Europa occidentale. L'Europa è nata per abbattere i muri, non per costruirli. Vi invito tutti a chiedere perdono per le persone e le istituzioni che chiudono la porta a questa gente. Non bisogna affidarsi ai muri. Se le persone sono costrette a fuggire, lo faranno sempre, troveranno altre strade. Se oggi ci sono dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, accanto alla Francia, all'Italia e agli altri paesi fondatori, è perché qualcuno ha abbattuto un muro e ha dato a quei popoli la possibilità di benessere, di libertà e di futuro. Tutti i muri crollano, oggi, domani o dopo 100 anni, ma crolleranno. I muri mai sono soluzioni, invece i ponti sì, sempre, sempre. Onorevole Lia Quartapelle, di questi giorni c'è l'anniversario della caduta del muro di Berlino, però muri che crollano e muri che vengono costruiti. Ieri la sfida era integrare i paesi dell'est, oggi sono loro a costruire muri. Perché? Ma oggi la vicenda europea è sicuramente messa in discussione da questa idea di costruire dei nuovi muri. La sfida principale che noi abbiamo davanti è quella di fare sì che i muri che abbiamo abbattuto negli ultimi 25 anni non vengano ricostruiti. Sì, però non è quello che capita. I paesi dell'est soprattutto stanno costruendo muri, vediamo l'Ungheria. Sono i nazionalismi che fanno paura ai paesi dell'est? I nazionalismi sono quelli che fanno paura all'Europa. I paesi dell'est si rifugiano nell'idea di nazionalismo per evitare un processo di integrazione europea che è un processo non solo economico ma anche valoriale e di un certo tipo di orizzonte comune che va al di là della condivisione delle risorse. Senta, nell'89 quando cadeva il muro di Berlino, lei aveva 7 anni, ha qualche ricordo di quei giorni? Più che la caduta del muro di Berlino io ricordo l'uccisione di Ceausescu e di sua moglie, e quelle immagini della morte di due persone in diretta televisiva ricordo che mi colpirono molto perché non riuscivo a capire che cosa succedeva e perché era significativo quell'evento, però mi sono immagini che mi sono rimaste molto impresse. Il crollo del muro, la fine della guerra fredda, le storie, protagonisti, i segreti a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Mix 24. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Allora, cari ascoltatori, caro Giovanni, caro Pietrangelo, vieni via con me, canta Paolo Conte e anche Michael Dell, che ha fatto un'offerta da 53 miliardi di dollari, il più grande deal del settore high-tech, a un'azienda che si chiama EMC. La Dell è un grande produttore di computer, quindi hardware, EMC invece è cloud, i big data, cioè l'incorporeo, il dato, che però è sempre più prezioso. Oggi siamo tutto su questo, ecco. Sì. E intanto, per chiudere col professor Bernabei, come sempre commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Oncology, 23 luglio 2015. L'utilizzo di chemioterapia, performance status e qualità della vita alla fine della vita. Professore, questa notizia sulla chemioterapia cosa significa? Ma sappiate che è molto normale, e molti di voi l'avranno sperimentato, tentarle tutte fino agli ultimi mesi per cercare di combattere il cancro. E allora è evidente che la chemioterapia è il presidio fondamentale. Questo lavoro ci dice se ha senso o meno continuare con la chemioterapia fino alla fine. Molte volte i familiari non vogliono lasciare nulla di intentato, non si rassegnano, si illudono, spingono per trattare. Io credo che sia importante che riflettano dopo aver sentito i risultati di questo studio. JAMA Oncology ci fa vedere cosa succede a 300 pazienti con aspettativa di vita inferiore a 6 mesi, la metà hanno continuato la chemioterapia fino alla fine, l'altra metà invece l'ha sospesa. Sono stati intervistati i familiari per vedere, dopo che il familiare non c'era più, come erano stati questi ultimi 6 mesi. Intanto non c'è stato nessun aumento di sopravvivenza. Quindi non è che aver fatto la chemioterapia ha prolungato la vita, ma soprattutto la sopravvivenza, questi 6 mesi, sono stati associati con una peggiore qualità della vita, come ci si sarebbe aspettati, è stato dimostrato. E soprattutto chi stava meglio ha avuto le influenze più nefaste da parte della chemioterapia. Quindi un punto interrogativo vorrei che si sollevasse nelle menti e nei cuori, perché qualche volta magari spingere per questa chemioterapia è fino più alla fine. Fino alla fine, è più per magari volontà dei familiari che si sentono in qualche modo in ansia, che non per assicurare una miglior vita al vostro paziente, al vostro amico, al vostro babbo, alla vostra mamma. E per chiudere, pazienza di Gianna Nannini.